Ta Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Naturalmente, oltre alla modulazione di frequenza, potete ascoltarci anche tramite il web con l'apposita app che potete tranquillamente e gratuitamente scaricare dal sito radiocittafujiko.it. E da qualche mese anche tramite il DAB che è in continua evoluzione, stiamo ampliando il nostro raggio d'azione tramite il DAB e quindi ci sono molte possibilità in più di ascolto in tutta Italia. Mercoledì ore 10.30 all'incirca è l'orario in cui inizia Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo di ogni genere, quasi ogni genere e di ogni epoca. E come sempre Città Fujiko Live Club inizia con una novità che oggi è appannaggio di una band britannica non molto nota dalle nostre parti. Band che detta all'inglese si chiama Magnum, ma detta alla latina, che per noi sarebbe un po' meglio perché è una parola latina, si chiamano Magnum. I Magnum si sono formati in quel di Birmingham, in Gran Bretagna, nel 1972 dall'unione di Tony Clarkin, chitarrista, e Bob Cutley, vocalist, che saranno sempre i due leader della formazione attraverso cambi di line-up innumerevoli, oserei dire. Per un certo periodo si sono anche sciolti, poi si riformarono praticamente con la stessa formazione, inizialmente chiamandosi Hard Rain, ma poi si autoconvinsero a ritornare al nome originale Magnum. Tony Clarkin è morto nel gennaio del 2024, alcuni dissero che sarebbe stata la fine della band, e invece nello scorso gennaio il buon Bob Cutley ha riformato la band per una serie di concerti in onore di Tony Clarkin. Non si sa ancora se sia una riunione definitiva o che altro, però nel frattempo è uscito un album dal vivo che si chiama Live di KK's Steel Mill, che fa parte di una serie infinita praticamente di album live che la band ha pubblicato in tutti questi anni, essendo una band essenzialmente live. E questo live The KK's Steel Mill documenta, per meglio dire, l'ultimo concerto che Tony Clarkin ha fatto in vita sua e naturalmente insieme a Magnum. È un doppio CD che è stato registrato nel locale che dà il titolo all'album, il KK's Steel Mill, e in quel di Wolverhampton, in Gran Bretagna, il 10 dicembre del 2022, come dicevo, l'ultimo concerto di Clarkin prima della malattia e prima della morte. Una band di cosiddetto hard rock melodico, ma poi ha tentato diverse volte di cambiare, ma non tantissimo il genere, ma sono rimasti sempre ancorati a questo genere musicale, sempre facendo la tara di quello che le definizioni musicali dei generi musicali possono essere. Loro sono molto molto famosi in Germania, più che in Gran Bretagna, e appunto hanno fatto diversi tour in Germania, anche molto lunghi, forse più che in Gran Bretagna. Dopo tutte queste chiacchiere andiamoci ad ascoltare questi Magnum che vi propongo in un brano, quello che apre il secondo dischetto, che si chiama White Swan, il cigno bianco. Loro sono Magnum. Songs of heaven for you called Wild Swan. Wild swan, said, I'm coming home. Come ha detto lo stesso Bob Catley, il cantante di questi Magnum, la mia conoscenza del latino è di gran lunga inferiore a quella già scarsissima dell'inglese, per cui continuerò a chiamarli all'inglese, o così almeno spero. Comunque, il brano si chiama White Swan, fa parte dell'ultimo album uscito da questi Magnum, che si chiama Live dei KK's Steel Mill, che, lo ripeto ancora una volta, è l'ultimo, racchiude l'ultimo concerto che uno dei fondatori della band, Tony Clarkin, chitarrista, ha suonato appunto insieme alla band prima di abbandonare questo mondo. E questa White Swan mi ha dato l'idea di proporvi in questa prima parte della trasmissione dei brani che riguardano gli animali. Animali, Swan naturalmente è il cigno, animali che ce ne sono tantissimi, lo sapete sicuramente meglio di me, ci sono tantissime canzoni, per meglio dire, che parlano di animali, e quindi anche in questo caso una piccola scelta, una piccola scelta è quella di proporvi brani con nome di animali con la S. Naturalmente stiamo parlando all'inglese, c'era la White Swan insieme a Magnum. E adesso rimaniamo in tema di Swan, infatti abbiamo a questo punto i T-Rex, una band fra quelle storiche nel panorama britannico, del glam rock soprattutto. Iniziarono come Tyrannosaurus Rex, un duo che era capitanato da Mark Bolan, poi si stancò di essere in versione praticamente acustica, ampliò la band a quartetto, ma ristrinse, diciamo così, il nome da Tyrannosaurus Rex a T-Rex solamente. Mark Bolan è morto nel settembre del 1977, lasciando un grande vuoto nella musica britannica. Sono stati pubblicati numerosi album sia in studio che dal vivo, una volta deceduto Mark Bolan e naturalmente sciolta la band. Questo è uno di quelli, uno dei live, si chiama Uncaged, è stato registrato durante la trasmissione televisiva tedesca che si chiama Beat Club, una cosa che vi ho già fatto ascoltare diverse volte, registrazione effettuata in questo programma, che è il programma che secondo me è mancato qui in Italia per far conoscere la musica rock invece di fare canzonissima. È tutta un'altra storia, perché Beat Club faceva ascoltare musica dal vivo veramente molto molto interessante. Il brano che ci andiamo ad ascoltare appunto riguarda ancora un cigno bianco, si chiama Ride a White Swan, loro sono i T-Rex. Riding on out like a bird in the sky, wheels riding on out like a human bird. Flying on out like an eagle in the sunbeam, riding on out like a human bird. Druid in the old days, wear a tall hat in a tattoo gown. Ride a white swan like the people of a Belted. Wear your hair long, baby, can't go wrong. Touch a bright star and place it on your forehead. Say a few spells and baby, there you go. Take a black cat and sit it on your shoulder. You need a morning, you know you know. In the old days, wear a tall hat in a tattooed gown. Ride a white swan like the people of a Beltane. Wear your hair long, baby, come the wrong. Da da dee dee da da dee dee da. Siamo rimasti in tema ornitologico, siamo passati dal cigno al gabbiano, infatti il brano, anzi una gabbiana in questo caso, perché si chiama Sister Seagull, il brano che ci siamo ascoltati. Loro erano Bebop Deluxe, una grande band che veniva da Wakefield, è stata attiva dal 1972 al 1978 con Bill Nelson, leader della band, chitarrista e cantante, che ha sempre guidato questo quartetto. Rageland, che ci siamo ascoltati, è un album che fa parte della serie BBC Radio 1 Live in Concert, è stato registrato in diverse location. In un caso particolare questo Sister Seagull è stato registrato al Paris Theater di Londra il 15 gennaio del 1976. Sono molte le canzoni e anche i libri, fra parentesi, scritti sui gabbiani, quindi ce ne andiamo ad ascoltare un'altra. Questa si chiama semplicemente Seagull ed è di una band che si chiama Ride. È un quartetto che viene da Oxford, è stato attivo dal 1988 al 1996, poi sono sciolti ma si sono riformati nel 2014 e sono su tuttora vivi e vegeti. La cosa che ci andiamo ad ascoltare, appunto, Seagull, fa parte di un promo live che è stato registrato al Roxy di Los Angeles il 10 aprile 1991. Loro si chiamano Ride, il pezzo si chiama Seagull. We'll be right back. e non ti perderai, non concedo niente, niente, ma sono mai, seguo sempre il filo e non lo perdo mai, segui questo filo e non ti perderai, prendi questo filo e non ti perderai. Labirinto senza uscite, è il tuo spazio ricamato, io non saprei camminare. Che vila lungo i piascori buchi, veloce corro su e giù, sono per tutti un saggio, ma certo scrumori io non ne ho. Dentro i miei pregiati sudari, delicato cullo la preda. Sì, lo so, avevo detto animali con la S all'inglese, questo invece in italiano è ragno, ma in inglese sarebbe spider, quindi entra di diritto questa piccola rassegna animalesca, diciamo così, perché appunto il ragno è spider in inglese. Avrete certamente riconosciuto il Banco del Mutuo Soccorso, una delle migliori band italiane di tutti i tempi. Loro sono attivi dal 1968, Vittorio Innocenzi, il tastierista e cantante, è l'unico membro originale, e dopo la morte di Francesco Di Giacomo e di Rodolfo Maltese c'è stato un turnover abbastanza continuo nell'ambito del Banco del Mutuo Soccorso, ma lui è rimasto l'unico membro originale. Fra l'altro c'è un nuovo album che è uscito proprio in questi giorni, si chiama Storie Invisibili e non l'ho ancora sentito, ma presumo che sia come sempre un ottimo album. Questo invece che ci siamo ascoltati è un doppio dischetto live che si chiama No Palco, è stato registrato alle Campanelle di Roma il 6 luglio del 2002 in occasione del 30° anniversario della band. C'è una piccola discrepanza di 4 anni fra la nascita della band il 68 e la registrazione appunto del 2002, comunque non ci facciamo caso perché è un doppio dischetto veramente notevole. Il brano, ma lo sapete, l'ho già detto, si chiama Il Ragno. Ora se vuoi puoi andare oppure restare anche a noi. Credo che Mr. David Bowie non abbia bisogno di nessuna presentazione, è un mito, è un'icona assoluta della musica rock di tutti i tempi e non solo rock. Purtroppo ci ha lasciato nel gennaio del 2016 e ha lasciato veramente un vuoto praticamente incolmabile, perché era un genio musicale, ne faceva un po' di tutti i colori ma sempre ad altissimi livelli. C'è da dire che qualche canzone lascia un po' a desiderare, ma sicuramente il livello qualitativo globale, diciamo, è super super super. Gente che respira. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è la title track di questo doppio album live che si chiama Glass Spider Live Montreal 87, una serie di album live che sono stati pubblicati nel corso degli anni. Questo è del giugno del 2000, è stato pubblicato nel giugno del 2007 ed è relativo appunto a questo concerto di Montreal allo Stadio Olimpico, uno stadio che fra l'altro adesso non c'è nemmeno più, in cui vidi una partita di baseball, ma questo è un altro discorso. Il tutto è stato registrato il 30 agosto del 1987. Vi dicevo che era la title track dell'album e infatti il brano si chiama Glass Spider, Mr. David Bowie. Up until 100 years ago, there lived in the Zhejiang province of an eastern country a glass-like spider. Having devoured her prey, she would drape the skeletons over her web in weeks, creating a macabre shrine of remains. The web was also unique in that it had many layers, like floors of a building. At the top of this palace-like place, assembled with almost apparent care, were tiny, shiny objects. Glass, beads, dewdrops. One could almost call it an altar. When the wind blew through this construction, it made sounds of wailing, crying. Tiny wails, tiny cries. Baby spiders would get scared and search frantically for their mother. But the glass spider had long gone, knowing that somehow they would survive on their own. Oh, she had blue eyes, almost like a human. They shed tears at the winter turn of the centuries. Come back. of the bedroom door. Maybe he's as scared as me. Where's he gone now? I can't see. Trapped in a ball, doesn't seem to move at all. Perhaps he's dead, I'll just make sure. If this woke up off the floor. Sono poche le canzoni che gli Who eseguono in concerto esulando dalla coppia di scrittura Townshend Daughtry. Una di queste si chiama Boris the Spider e l'ha scritta John Entwistle, il bassista. E qui però abbiamo John Entwistle in veste solista per un album che appartiene alla serie King Biscuit Flower Hour. È un personaggio, John Entwistle, che ha fondato gli Who, è stato per lungo tempo membro della band fino alla sua morte nel 2002. Ha fatto diversi album in studio e due album live. Appunto questo King Biscuit Flower Hour, uno di quelli, è stato registrato allo Spectrum di Philadelphia in Pennsylvania il 15 marzo 1975. Boris the Spider. Concludiamo questa piccola rassegna sempre con gli Spiders, sempre con i ragni, e ci sarebbero tantissime altre cose. Un numero incredibile riguarda gli snakes, i serpenti, ma siccome mi fanno schifo, facciamo un'altra volta. Finiamo, dicevo, con gli Spiders, con i ragni, attraverso una band che si chiama Drive By Truckers, una grandissima band americana, purtroppo sconosciuta alle nostre latitudini, che arriva da Athens, Georgia, attiva dal 1966, ha fatto un sacco di album live, fra cui questo triplo splendido che si chiama It's Great to Be Alive, 3 CD, come vi dicevo, registrati al Fillmore di San Francisco il 21 e 22 novembre del 2014. Andiamo a concludere alla grande con una scatola addirittura di ragni, si chiama Box of Spider, loro si chiamano Drive-By Truckers. Great-granddad was called the general, even though I don't think he was ever actually in the military. But back in them days, in the part of the country where we grew up, it wasn't really all that uncommon for men to give themselves military rank that they didn't actually get in the military. And he was a pretty good gambler, and he could drink any man in Lauderdale County under the table during the Great Depression. And my granddaddy got fed up with all that shit, and he ran away from home when he was 12 years old. He'd had enough, and And he rode the rails and he hoboed all around America for 2 years in the height of the Great Depression. And he saw shit that most people would never see. And when he was 14 years old, he came home and he walked through the front door and no one even asked him where he'd been. It was just another mouth to feed. But my granddaddy was smart and he taught himself well. And he set his sights on the most beautiful woman in Lauderdale County, Alabama. And her name was Lilla Ruth Johnson. And he married her, and she's my grandmother. And we all called her Sissy, and Sissy just couldn't believe the stories her new husband would tell her about his childhood and how he used to drive his daddy to the bootlegger and the whorehouse when he was a little boy. Johnsons are all good Methodist people, and she'd never heard such talk. And she said one day, she said, didn't you feel terrible driving your daddy to the bootlegger and the whorehouse? My granddaddy said, shit, I was 10 years old. I was driving a Cadillac. I would have driven that son of a bitch to hell if he asked me to. And the general's wife, her name was Neil, but by the time I came along, everybody just called her Grand. And I think she kind of reveled sometimes in being the wronged wife of the general. And when she got old, she took to going to funerals. And I'm not talking the way all of us, as we get older, have more and more friends we lose and we spend more and more time going to funerals. I'm talking she'd look at the paper at the obituaries, and if it looked like a good one, she'd dress up all in black and she'd be at some stranger's funeral just crying and crying and crying. She'd be the loudest griever there. And people would walk up to her and they'd put their arm around her and they'd say, oh, we're so sorry for your loss. Grand loved that shit. She always said the best funeral she ever went to is the general's. And I wrote this song for her. It's called Box of Spiders. Grand keeps a box of spiders. Says they're on me when I sleep. Waiting in the outhouse for me. Underneath the seat. Great grandmother's about 97. She is sure when she gets to heaven. St. Peter's gonna throw his arms around her and say, I've waited so long for us to meet. She put the general in the box and buried him behind the Stony Point Church of Christ. When I was 3, than hell in here. child. We're going to play a song that's the title track from our 22nd album. It came out earlier this year. This song is called The Monster Rose. We hope you like it. Last tonight, no one to play. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, siamo al 19 marzo del 2025, seconda parte che si è aperta, come sempre si apre la seconda parte nelle mie trasmissioni con la novità che vi propongo quest'oggi, che è una novità ad opera di una band britannica che si chiama Magnum e che ha pubblicato recentemente questo Live at the KK's Steel Mill, che è l'ultimo album in studio reperibile da parte di questa band, che ne ha fatti tantissimi nel corso della propria carriera, visto che è stata fondata nel 1972. Come vi ho detto in precedenza, questo album racchiude l'ultimo concerto che il chitarrista e fondatore Tony Clarkin fece prima di morire nel 2024. La registrazione è effettuata a Wolverhampton il 10 dicembre del 2022. Come avete sentito dal cantante Bob Catley, questa era la title track del loro 22esimo album, quindi come se, come potete immaginare, dal 72 ne hanno fatti tantissimi, appunto 22, ma ne è uscito un altro nel frattempo, e l'album e il brano che ci siamo ascoltati si chiama The Monster Roars. Had no kids, their hands dirty. Come sempre però nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni. Come vi dicevo prima, siamo al 19 marzo, tantissime registrazioni effettuate in questo giorno e il criterio di scelta è sempre quello di un brano per ogni decade e naturalmente è sempre live. Andiamo ad iniziare subito, ci sono naturalmente tantissime cose. Iniziamo dal 1968 con una band che si è formata 3 anni prima a San Francisco e si chiama tuttora Big Brothers and Holding Company, appunto fondata nel 65 tuttora viva e vegeta dopo innumerevoli sbandamenti, scioglimenti, riformazioni, cambiamenti di line-up e tante altre cose. La band è diventata famosa perché è stata quella dove ha preso il via la carriera luminosa, purtroppo brevissima, della più grande cantante bianca che io abbia mai avuto modo di ascoltare. Si chiama Janis Joplin, che entrò nella band nel 68. Ne uscì poi nel 1966 ed è ne è uscita nel 1968 per una carriera solista, purtroppo, come dicevo, troppo breve. Questo è il secondo album che ha fatto la band, si chiama Cheap Thrills, è un mix di brani fra studio e live. Alcuni dicono che molti dei brani pseudo live sono fakes, nel senso che sono stati registrati in studio e con applausi aggiunti. Non lo so, però mi fido di questo brano che si chiama Combination of the Two, perché c'è anche l'introduzione di Bill Graham, che è sempre una sicurezza. Il tutto registrato, visto che c'è Bill Graham, che era il suo gestore, registrato, dicevo, al Fillmore Auditorium di San Francisco il 19 marzo 1968. Janis Joplin, anzi no, scusate, Big Brothers and the Holding Company, perché c'è anche il cantante maschio. Il brano, lo ripeto, si chiama Combination of the Two, appunto due cantanti. Four gentlemen and one great, great roar. Big Brother. La combinazione fra le due voci di Sam Andrews, chitarrista e cantante, nonché fondatore di questi Big Brothers and the Holding Company, e la voce meravigliosa di Janis Joplin, portavano appunto a questa combination of the two, la combinazione dei due che erano la caratteristica di questo brano. Chap Trills, come dicevo prima, è un mix di brani in studio e brani live. Tralascio sul fatto che appunto alcuni hanno dei dubbi sulla veridicità del live, ma questo pezzo secondo me è molto bello e sicuramente, almeno a mio avviso, registrato live. Naturalmente era il 19 marzo del 1968. Andiamo negli anni 70 e cambiamo radicalmente passo, radicalmente genere musicale, ma questo è il bello appunto dei Ricordi Today, avere una scusa, quella del giorno di registrazione, per farvi ascoltare brani che non c'entrano assolutamente nulla uno con l'altro. E infatti non c'entrano niente Big Brothers and the Holding Company con i King Crimson, che ritornano in questa trasmissione dopo qualche mese. Alcuni di voi mi hanno detto che avevo un po' rotto con i King Crimson e quindi ho cercato di evitarli, ma diciamo che negli anni 70 il 19 marzo non ha molto altro da offrire, se non appunto questi King Crimson, che però sono sempre una gran bella cosa. Abbiamo un unbox set che si chiama The Elements Tour Box, in mezzo c'è l'anno, ne hanno fatti 8 versioni dal 2014 al 2021, quindi nel caso particolare abbiamo The Elements che è il numero 20, se ricordo bene, sì, anzi sono praticamente sicuro. E questo box set formato sempre da due CD era un'unione anche in questo caso fra brani in studio e brani live di ogni epoca della band. Quindi in questo caso andiamo ad ascoltarci un brano che si chiama Guts on My Side, che è stato registrato al Palazzo dello Sport di Udine, qui in Italia, il 19 marzo del 1974. La formazione che è dei King Crimson in questa occasione vede, oltre al solito Robert Fripp alla chitarra e al mellotron, abbiamo David Cross al violino e alle tastiere, John Wetton al basso e alla voce e il grandissimo Bill Bruford alla batteria. Onestamente non la formazione migliore, il fatto di David Cross legava un po' la musica dei King Crimson al suo violino, ma sempre King Crimson e sempre alla grande. Guts on My Side era il 19 marzo del 1974. Fever, Palazzo dello Sport di Udine, 19 marzo 1974, questi erano i King Crimson, il brano si chiama Guts on My Side. Gli anni 80, passiamo al 1984, sono rappresentati degli Style Council, la band che Paul Weller dei Jam e Mick Talbot dei Dexys Midnight Runners, scusate, fondarono nel 1982. Si divisero poi nel 1989, più ogni tanto suonano insieme in qualche concerto spot in giro per la Gran Bretagna e forse anche un po' di Europa. Hanno fatto 5 album in studio più 2 live. Questo, che si chiama In Concert, è il secondo album live della band ed è stato registrato in diverse occasioni e naturalmente in diverse serate. Qui siamo alla City Hall di Newcastle il 19 marzo 1984. Il brano che propongono gli Stan Council è una cover, un classico di George Clinton dei Funkadelic, anzi creatore dei Funkadelic, che è uno dei suoi grandi inni, appunto. Si chiama One Nation Under the Grove, loro sono Style Council. Just for the funk of it, one nation, oh, we're on the move. Nothing can stop us now. the funk of it. One nation, we're on the move. Nothing can stop us now. Siamo passati al 1990 con una band appartenente al cosiddetto filone Britpop, una band, non me ne vogliono e non diteglielo, di secondo piano a mio avviso. Comunque, si chiamano tuttora House of Love, sono stati fondati a Londra nel 1986, nel 1993 sono sciolti. Poi sono riformati 10 anni dopo, nel 2003, e sono tuttora in giro, soprattutto per la Gran Bretagna, sempre sotto la guida di Guy Chadwick, cantante e chitarrista, che è l'unico membro costante e leader della formazione. Live at the BBC è l'album che ci siamo ascoltati, registrato in diverse occasioni. In questo caso abbiamo il brano numero 2 che si chiama Road, che è stato registrato a Preston, alla Guildhall, il 19 marzo del 1990, appunto. Preston è in Gran Bretagna, naturalmente. Il tutto appunto da House of Love 1990. The Beatles and the Stones made it good to be alone. Sfondiamo gli anni 2000 e andiamo dall'altra parte, non solo dell'Oceano Atlantico, ma anche degli Stati Uniti. Andiamo infatti a San Francisco, al Fillmore, dove è registrato questo album molto molto bello, che è appannaggio di un trio from Boulder, da Boulder, Colorado, dal 1986. Si chiamano Big Head, Todd and the Monsters, anche questi molto famosi negli Stati Uniti, soprattutto grazie ai continui concerti che hanno fatto e continui tour sempre in giro per gli Stati Uniti e anche per il mondo. Qua in Italia non credo ne siano mai venuti, non ne sono sicuro e non ho appurato, quindi prendete questa notizia con beneficio d'inventario. Essendo appunto costantemente in tour, hanno fatto molti album dal vivo. Questo è il primo della loro carriera, si chiama Live at the Fillmore, il Fillmore naturalmente a San Francisco, e è stato registrato appunto il 19 marzo del 2004. Ci andiamo ad ascoltare quello che è il loro più grande successo, questo oserei dire un successo planetario, perché è un brano molto conosciuto. Loro sono Big Head, Todd and the Monsters, e il brano invece si chiama Bittersweet. And I drink. She's not so far as she sings. A brighter meadows, melting sunsets, her hair blown in the breeze. She can't see me watching, thinking, love. Love. and I know we don't talk about it. We don't tell each other all the little things that we need. Il 9 marzo 2004 in quel di San Francisco, Big Head Todd and the Monsters, il brano si chiama Bittersweet. Ho praticamente un minuto per ricordarvi che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25, un paio di ore di musica live di tutte le epoche, di quasi ogni genere. A concludere Record Today di oggi, anche Città Fujiko Live Club, ci penso a una band, una nuova stella del movimento jam bands americano. Si chiamano Big Something, arrivano da Burlington, North Carolina, sono attivi dal 2009. Per $5 potete scaricare, $5 al mese, potete scaricare tutti i concerti che hanno fatto, e a casa ne è un casino. Comunque andiamo avanti, hanno fatto 7 album in studio e questo è uno dei tanti download appunto che ho e che vi propongo. È stato registrato al Mercy Lounge di Nashville, Tennessee, 19 marzo del 2016. Il brano si chiama Tumbleweed, loro sono Big Something, grazie per l'ascolto, ciao a tutti da Nevio. Are you having fun? Keep moving till the crowd. the next revolution. You got a million miles to roll on in this desolate place. You got a million miles of sand, a million miles and a million more, a million miles and a million miles and a million miles. Hey! Cactus tripping, eclipse the sun. Are you still having fun? Well, you're just a bag of bones. You're just a bag of bones. You're